Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la terza parte di Eclettica nella settimana in cui, scrivendo a Giulio e radio@rockfm.com, potete vincere i seguenti biglietti: quelli di Torino il 26 e l'Hiroshima per quanto riguarda il tour d'addio degli Arab Strap, la stessa sera ai magazzini generali di Milano Stuart Staples, e il giorno dopo, il 27, al Rainbow, dove ci saranno invece gli Io la tengo, e questo è il nome giusto della band. Vediamo di partire con la trasmissione, che forse è meglio. Jacob Dittmahler non era così sprovveduto da non rendersi conto che erano arrivati a casa del suo amico il giorno del bucato. Non sarebbero dovuti arrivare in nessun posto, e meno che mai in questa casa solenne, terza per grandezza a Weissenfels, in un momento simile. Sua madre sopritendeva al bucato 3 volte l'anno, ragione per cui la famiglia e i suoi dipendenti avevano lenzuola e biancheria solo per 4 mesi. Egli stesso possedeva 89 camicie, non più. Ma qui, a casa Hardenberg, nella Klostergasse, dalla grande nevicata sudicia di lenzuola, federe per cuscini e capezzali, panciotti, corpetti, mutande, dalle finestre superiori nel cortile, dove servitori dall'aspetto serio, uomini e donne, li ricevevano in giganteschi panieri, Dittmahler poteva vedere che lavavano solo una volta l'anno. Questo era l'incipit del Fiore Azzurro di Penelope Fitzgerald. Eclettica. Enrico, sai perché i commercianti di boomerang australiani falliscono? No, questa non la so. Falliscono perché la merce gli torna sempre indietro. È buona, non ti pare? Now when you told me that my love was just aesthetic, and I fell into the beauty of another, and it was in the summer, the confusion was blue. again. I don't think I'll be your lifelong friend. I don't want to carry any of your pain. I'm gonna talk to you and I never explain, 'cause you never get me right, never get me right, never get me right. And even if you try, you never understand. You never get me right, you never listen tight, you never get me right. Oh, ma l'avete capito che il film di questa settimana è Profondo Rosso? È proprio quello. Non ho usato fino ad ora spezzoni in cui magari le atmosfere musicali vi potevano aiutare, però se conoscevate quel film sicuro avete sentito degli spezzoni di parlato che vi hanno permesso di arrivare al titolo del film senza questo mio aiuto. Invece l'aiuto serve per ricordarvi che cosa vi siete ascoltati in questa prima metà della terza parte di Eclettica. Abbiamo aperto con i Telescopes, di cui ci stiamo ascoltando da qualche settimana a questa parte, forse solo dalla scorsa, Hungry Audio Tapes, il titolo dell'album dal quale ho estratto il brano Another Sky. Tutto questo per un'etichetta che si chiama Hungry Audio, quindi esattamente come Hungry Audio, come l'album. Invece due brani estratti da album per la stessa etichetta, quelli che hanno seguito The Telescopes. Prima gli Early Day Miners da Offshore, Return of the Native, il brano passato, e poi sempre Secretly Canadian per Frida Hyvönen, Until Death Comes è il titolo dell'album, e invece You Never Got Me Right è il titolo del brano che si è appena chiuso. E Eclettica che prosegue con un duo che arriva da Portland, nell'Oregon. Loro si chiamano The Blow. Paper Television, il titolo dell'album inciso per la Tom Lab, dal quale la traccia numero 2 estratta ha per titolo Parentheses. avete sentito parlare molto spesso bene della Labrador. Però vi ho appena voluto dare conferma che non è che accetto le loro proposte musicali così, sempre a scatola chiusa. Ce ne sono alcune che non mi convincono, questi non penso torneranno, però per onore di cronaca vi ho comunque messo quest'altra novità arrivante dalla Svezia. Arrivante? Non mi è uscita questa. Comunque, The Legends, ce li siamo ascoltati con il brano The Lucky Star. Arrivante, questo insomma è da segnare con la penna rossa. Ora invece ci spostiamo in Germania, da Stoccarda, un esordio non proprio in giovane età, 29 anni per la precisione, da parte di Miss Kenicki, che incide per Alpha South. Lì sotto c'è un arcobaleno che è tossico, lì sotto c'è un cane che morde. Miss Kenicki, Under My Skirt. Under my skirt there's a rainbow that's toxic. Under my skirt there's a dog that bites. You might lose an eye, or you'll burn your fingers. But hey, boy, you should try. I never eat fruit, I only drink coffee. I can't sleep at night, I just stare outside. Abbiamo provato a guardare sotto la gonna di Miss Kenicki. Ci sono arcobaleni tossici, ci sono serpenti che mordono, o erano cani, no, erano cani che mordevano, ma ci sono cose che possono essere trovate e insomma bisognerebbe provare, poi d'altronde ce lo dice lei. E come non accettare un invito di questo tipo? Si chiude la terza parte di Eclettica, si chiude con un nome nuovo per quanto riguarda le nostre playlist, è il nuovo album da parte dei White Magic, ci sarà tempo per parlare di loro. Ora i minuti che ci portano alla fine di Eclettica ci permettono solo di annunciare il brano che la chiuderà. Si tratta di Katie Cruel, loro sono i White Magic. When I first came to town, they called me the roving Jew. Now they've changed their tune, call me Katie. Bogey mine, straight away down the road till I Eclettica. Fine della terza parte.